anima libera, ti senti candida, lassù nel cielo volerai, anima libera, sempre mi illumina, nel buio dei pensieri, anima libera, solente e magica, sei la speranza dentro me, anima libera, leggera e unica, nel cosmo azzurro brilla, e non lasciare che paure inutili nascondano la luce in te, io non ti scorderò, io ti celeberò. Yeah, so yeah.